Mare di Giovanni Pascoli. M'affaccio alla finestra e vedo il mare. Vanno le stelle, tremano le onde. Vedo stelle passare, onde passare. Un guizzo chiama, un palpito risponde. Ecco, sospira l'acqua, alita il vento. Sul mare è apparso un bel ponte d'argento. Ponte gettato su laghi sereni. Per chi dunque sei fatto e dove meni? Di Giovanni Pascoli, Mare.